insieme alla Lombardia, saranno le regioni in cui verosimilmente l'assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della fine di giugno. Insomma, secondo le proiezioni fatte dagli esperti dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni, e sottolineo, parliamo di proiezioni, le due regioni, Marche e Lombardia, saranno le ultime a liberarsi dal Covid. È curioso però, professor Tavio, che regioni così diverse condividano la stessa sorte. Forse questa strana coppia potrebbe suggerirci, magari, che ne so, delle riflessioni, delle valutazioni sull'impatto dei fattori sulla diffusione del contagio e anche sulla lentezza in cui i casi calano, diminuiscono? Guardi, io prenderei con molta attenzione i modelli matematici, che hanno il pregio di essere molto molto precisi, ma molto rigidi. Per cui cambiando le condizioni con le quali sono stati concepiti questi modelli, poi si hanno dei risultati molto diversi. Allora, prendiamo questo dato come un dato suggestivo che ci stimola a continuare ad avere comportamenti di grande attenzione, ma non prendiamolo come oro colato e soprattutto non pensiamo che questo condizioni le scelte di politica sanitaria, ovvero le scelte di politica sanitaria hanno bisogno non tanto di un giorno X in cui avremo zero contagi, hanno bisogno di una linea di tendenza, e la linea di tendenza è costantemente in senso favorevole in tutte le regioni, Lombardia e Marche incluse. Incluse. Professore, io tornerei un secondo ad un tema che abbiamo affrontato tante volte, che rappresenta uno dei veri problemi, cioè la contagiosità. Abbiamo parlato tante volte degli asintomatici, cioè delle persone che, pur non avendo i sintomi, possono trasmettere il virus, insomma contagiano senza saperlo, ma c'è un nuovo studio pubblicato su Nature che suggerisce che anche chi sviluppa la sintomatologia classica del Covid può essere contagioso in media circa 2 giorni e mezzo prima della comparsa dei sintomi. Professore, ma questa è una caratteristica comune alle malattie infettive o è tipica del Covid? E quali indicazioni può suggerirci questo studio nella pratica? Dunque, questa è una situazione che si verifica frequentemente nelle malattie infettive. Credo che non ci siano dubbi che la maggior parte delle affezioni virali diventa contagiosa prima che del primo sintomo di malattia. Questo ovviamente, poi le malattie, le varie infezioni hanno un profilo diverso da questo punto di vista. C'è chi comincia a essere contagioso un giorno prima, 2 giorni prima, oppure il picco della contagiosità avviene dopo diversi giorni. Dipende da che cosa questo? Dipende fondamentalmente dalla quantità di virus che si trova nelle secrezioni che permettono la diffusione della malattia. Quindi laddove una malattia fa il picco della concentrazione di virus nelle secrezioni respiratorie molto vicino all'esordio, addirittura prima dell'esordio, è chiaro che ha un vantaggio nella diffusione rispetto a una malattia come la SARS-1, che invece faceva il picco di concentrazione di virus nelle secrezioni dopo una settimana. Questo permetteva praticamente di riconoscere prima le persone malate, sottoporle certo prima ad isolamento e avere un vantaggio dal punto di vista umano. Quindi cosa ci dice questo studio? Nulla di più di quello che sapevamo, se non con maggiore precisione, ovvero che il Covid-19 è contagioso anche nella fase presintomatica. Non ci dice ancora che siano importanti gli asintomatici, quelli che sarebbero dei portatori sani perché non sviluppano la malattia. Ci sono anche questi, ma sono sicuramente meno importanti delle persone malate. Quali sono le implicazioni? Professore, ci fermiamo? Professore, ci fermiamo, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi le rubo ancora 2 minuti 2 per i 2 vero e falso e poi insieme al professor Bandello, che saluto, che è già in linea con noi, affrontiamo la fragilità nella fragilità delle persone che soffrono di una malattia della retina. Che cosa sta succedendo in questo momento, quali attenzioni e precauzioni, che cosa si sta pensando per queste persone? A tra poco. Promo 24.

che vengano rispettati, e il nostro futuro cambierà. La nostra, io sì. immagino. Noi dobbiamo prepararci, professor Bandello, e come si dice, insieme ce la faremo. Professor Bandello, grazie a Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, ad Anita Panizza in assistenza, a Laura Vanossi in redazione. Io torno domani, buona giornata.